Adesso dovremo passare alla discussione, discussione per la quale sono già prenotate, dicevo, 6 persone, altre non se ne sono aggiunte, ma se ne possono aggiungere. Questi interventi probabilmente si rivolgeranno ai relatori di questa mattina, ma mi sembra che solo più il padre Tiet fra i relatori stamattina sia presente in sala, quindi tenete presente che il professor Coda è partito senz'altro e anche Colzani, credo, quindi chi volesse rivolgere domande a questi relatori non può, può fare il suo intervento se lo ritiene in ogni caso, ma non in forma di domanda. Ecco, allora io darei subito la parola all'avvocato Todeschini. Sì. Se ci saranno domande al professor Tiet, il professore sarà invitato a sedersi al tavolo. Il quale avvocato Todeschini, essendo un avvocato, non è un addetto ai lavori, quindi è un ascoltatore. E preciso subito che non rivolgerò particolari domande ai relatori, perché le considerazioni che vado a fare, che cerco di tenere più brevi possibili, sono considerazioni più che altro sul significato della intitolazione del convegno, che stabilisce un rapporto fra il pensiero e la fede. Questa intitolazione, diciamo, in senso grammaticale, usa un gerundio che direi che è stato mantenuto costante nel corso delle varie relazioni. E cioè il pensiero è sempre stato posto come elemento sussidiario, però vorrei subito dire che la parola sussidiario non è diminutiva, è puramente funzionale in rapporto alla fede. E direi che questo è un carattere grammaticale, ma è anche un carattere sintattico e quindi anche logico, programmatico, anche aforistico se vogliamo. E direi che per arrivare ad una nozione, io cerco di mantenermi più estraneo possibile ai temi, proprio per vedere qual è la reazione di un ascoltatore sprovveduto, quale sono io, di fronte a questa massa di studio, a questo profluvio di scienza teologica e filosofica. Il linguaggio, l'uso del pensiero in rapporto alla fede, cioè alla trattazione delle cose divine, è, a mio avviso, mi sembra che possa apparire, proprio anche in questa sede, come una formula di linguaggio. In quanti modi si può parlare delle cose divine? Si può parlare attraverso la parabola, attraverso l'omelia, attraverso il racconto biblico, attraverso il Vangelo, attraverso la poesia, attraverso anche il teatro, se vogliamo. Tanti modi di espressione. Quella della scelta del pensiero è una scelta elitaria, cioè nel senso, usiamo questo linguaggio. Secondo me molto bene ha detto il professor Colzani quando ha messo in risalto lo spessore linguistico attuato da Rosmini per trattare i temi religiosi. Cioè, agli ascoltatori del suo tempo, il Rosmini doveva a un certo momento fornire un codice di comprensione. Mi sembra che questo sia stato il concetto che a un certo momento è affiorato da quanto ha detto il professor Colzani. Ora, io per essere breve, mi permetterei di osservare che, intanto bisogna dire che chiaramente il pensiero filosofico non esaurisce i suoi compiti in rapporto alle cose della fede, soltanto in questa funzione di supporto discorsivo, di codice di comprensione, perché a sua volta il pensiero filosofico può prendere la fede come oggetto di studio, ci può essere una filosofia della religione come ci può essere una filosofia del diritto, oggetto del pensiero, ma in questa sede direi che il carattere sussidiario viene mantenuto scrupolosamente, programmaticamente e scrupolosamente. Secondo me l'unica osservazione che vorrei fare è quello relativo all'insidia del mezzo usato, cioè è ben vero che possiamo rinvenire, e mi sembra anche che in un certo preambolo del professor Tillet la cosa sia stata anche accennata, ad una priorità del pensiero filosofico rispetto alla fede. E in questo senso, per dar valore anche alla partecipazione del pensiero filosofico in rapporto alla fede, io metterei anche in risalto l'elemento di fede che ci vuole per pensare. Noi quando pensiamo, dobbiamo avere fede in quello che dice. Non è la stessa fede? No, siamo uomini. Siamo uomini dentro una comunità che vuole essere divina, che cerca di essere divina, che si esclude dal divino per a un certo momento capire se è possibile rimanerci o non rimanerci. Allora dicevo, rimanendo, questa divagazione, per finire il mio discorso, è questo. Secondo me esistono nel discorso filosofico, specialmente oggi, delle grosse insidie, perché oggi un pensiero filosofico, un discorso filosofico, un'espressione filosofica direi che è estremamente debole, si parla di pensiero debole, addirittura ci sono degli scrittori che dicono che la filosofia è finita con Cartese. Heidegger addirittura ha detto che, se non vado errato, che la ricerca dell'essere è finita con Platone. Cioè, quindi praticamente c'è una specie di confusione di principi. Per cui questo linguaggio, che deve essere a un certo momento, se deve servire, la fede chiaramente non ha bisogno di esprimersi in termini filosofici, però questo linguaggio presenta delle insidie, perché la filosofia di oggi è fatta di tante divagazioni, di tante, permettetemi, civetterie. Oggi si va alla ricerca del termine astruso. Stamattina c'è stato quel piccolo incidente, se mi permettete, un incidente benefico, se vogliamo, casuale, relativo alle parole epistemologia. Ecco, questa parola, epistemologia, sta a denotare proprio l'insidia che c'è ad usare il linguaggio filosofico per le cose della fede. La fede non ha mica bisogno di preziosità filosofiche. La fede esiste anche senza... Il linguaggio filosofico è puramente strumentale in questo caso qui. Però, come dico, attenzione, perché questo linguaggio filosofico a un certo momento può fuorviare, può indurre al preziosismo discorsivo, alla parola roboante, a discapito di quello che è il succo della fede, che veramente è un'entità, è una forma che proviene dal rapporto che esiste fra l'uomo e il divino. E quindi non può essere facilmente, non può correre il pericolo a un certo momento di ingarbugliarsi, diciamo, col ragionare filosofico. Grazie. Grazie, do la parola al professor Cavacciuti. Non so se c'è il professor Conigliaro. È una domanda di carattere forse tangenziale soltanto, l'argomento da lui trattato. Ha ricordato come De Lubac sia stato, certo, mi pare, come ha detto, discepolo di Blondel. Ma mi pare che a proposito dell'ontologia, De Lubac abbia tradito il maestro, in fondo. Perché Blondel ha costruito una sua ontologia. Basta leggere le sue lettere e les etre. Ora, in quest'opera, lettere e les etre, ma credo anche in altre opere di Blondel, ricorre spesso un'espressione che io credo non sia lontana, essenzialmente lontana dal pensiero di Rosmini, cioè l'espressione l'uomo capax entis, e quindi capax dei, in quanto capax entis. Ora, vorrei sentire, capax entis, mi sembra che sia un'espressione che in qualche modo riprende l'idea, la dottrina rosminiana relativa all'idea dell'essere. Vorrei sentire, ho detto già al principio che è un argomento che soltanto tangenziale rispetto a quello trattato dal professore, ma avrei piacere sentire il suo parere in proposito. Al professor Padre Tillet, ha parlato del Cristo come maestro, e se non ho capito male mi pare che abbia detto anche che il suo insegnamento è il suo essere, però ha detto al Logos in Rosmini si sovrappone l'idea di inabitazione del Cristo, e poi ha detto Rosmini insiste non tanto sull'idea del Cristo sapienza quanto soprattutto insiste sull'idea dell'incarnazione. E questa idea, ora nell'idea del Cristo incarnato, mi pare, è presente non più tanto la sapienza, l'idea di sapienza, quanto piuttosto l'idea di amore del Cristo. Ora, sembrerebbe che nel Cristo allora si possa vedere una specie di dualismo, dualità, tra il Cristo quale sapienza e il Cristo quale amore. Ora, la soluzione di questa dualità, di questo problema, lo ha dato in qualche modo il professore Russo, quale ha accennato alla sapienza e all'amore quale due facce di un'unica in fondo realtà. Però non si potrebbe, ci si può accontentare fino in fondo di questa, diciamo, di questa soluzione, da un lato un'unica realtà che da un lato è sapienza, dall'altro è amore, o non si potrà anche cercare di riconoscere il primato dell'amore nel Cristo, come si riconosce il primato dell'amore in Dio stesso, amore il quale come tale riprende la sapienza, concetto di sapienza, e oltrepassa il semplice concetto di sapienza? Ecco, questa è la domanda. Avevo alcune domande al professor Coda, ma mi pare non ci sia. E così anche al professor Colzani. Alcune domande al professor Piazza. Una domanda forse può sembrare strana, ma Heidegger, che ha parlato dell'essere per la morte, non si può pensare che questo sia una specie di soffocamento dell'escaton, cioè soffocamento nel senso che riprende l'idea, in qualche modo l'idea dell'escaton, ma la soffoca in questo concetto appunto di essere per la morte. Questa è una prima domanda. Secondo, mi pare di aver sentito che ha citato, il professore stesso ha citato l'espressione natura ingemiscit usque aduc, non so, parlando, mi sembra che lei abbia usato così l'espressione natura ingemiscit usque aduc et parturit usque aduc, non l'ha usato, no. Allora ho capito male io, ma a me sembra che questo principio della natura che ingemiscit eccetera parturit faccia parte di questo problema dell'escaton, mi sembra molto importante, e volevo domandare se Rosmini valorizza questa idea che si trova appunto nella scrittura. E una terza domanda, sempre medesimo professore, ha accennato alla fedeltà di Dio, quale fedele bisogna avere speranza perché Dio è fedele. Ora, la fedeltà di Dio si basa soltanto sulla rivelazione, oppure si può trovare il suo fondamento nella stessa idea di creazione? In quanto Dio creando ha creato liberamente e quindi si prende cura di quello che vi ha fatto liberamente, come noi sentiamo la responsabilità di quello che facciamo liberamente, così Dio doveva pensare, in certo senso analogicamente ci intende, si sente responsabile, non nel significato giuridico evidentemente, di quello che lui ha fatto, e quindi per questo egli è provvidenza, per questo possiamo pensare egli si incarna, e per questo possiamo pensare egli è fedele. Grazie. Allora darei la parola prima al professor Conigliaro. E poi gli altri. Certo, ancora 3-4 persone. Allora la parola al professor Bo. La risposta è unica. No, va benissimo. Ma io gli ho fatto una proposta, il Presidente ha deciso. Prego. È ovvio. Il mio intervento era probabilmente misurato sulle tre relazioni questa mattina, ma se sono due usciti già, allora dovrò un po' riformarlo. Dunque ho imparato una cosa molto importante, Rosmini è un teologo, e credo che questo sia risultato evidente da questi due giorni di congresso, con molto interesse, con molta sorpresa. Teologo, tanto è vero che sono stati toccati temi fondamentali della teologia. Io mi domando però, questi temi fondamentali non ripropongono un pochino lo schema della manualistica teologica? Certo, anche quella aveva scelto i temi fondamentali, ma il fatto che ritornano in questo modo significa che Rosmini è stato interrogato per la sua teologia o perché si è partito da quel presupposto che forse lo ha costretto un po' in un quadro che non è il suo. Questo lo dico perché più di una volta ho sentito dire che Rosmini non parla propriamente di questo in questo testo, ne parla un po' qui, un po' là. Non ci sarebbe stato forse, lo domando perché è una cosa che io non so assolutamente, la pongo come interrogativo, la possibilità di cercare in Rosmini medesimo il quadro e l'articolazione della sua tematica teologica e del primo punto. Secondo, tema di filosofia e teologia. È stato proposto, è stato evocato, è stato discusso. La cortesia, giustissima cortesia dei relatori, ci hanno forse un po' impedito di riconoscere anche le divergenze tra i medesimi. Si citavano plaudendosi, ma poi divergevano. E questo è emerso questa mattina abbastanza chiaramente. E mi pare che ci sia stata anche una posizione abbastanza dura nei confronti del bravo Staglianò, il quale ha dato un'interpretazione abbastanza precisa di questo rapporto tra filosofia e teologia, affermando proprio la priorità, la fondamentalità di una ratio teologica propriamente, che non può essere identificata con la filosofia. Io non so se io sia d'accordo con lo Staglianò, ma non importa, manca a me, tanto meno a lui e agli altri. Dico questo soltanto che non ha proprio interesse ora. Dico che la soluzione che mi sembra più generalmente condivisa ha risposto ai suoi interrogativi, e questo è il mio dubbio, e credo che forse, dovendolo confutare adeguatamente come merita, bisognerebbe rispondere anche più attentamente a certi interrogativi, i quali sono poi emersi nella loro portata, proprio nella trattazione generale che io ho sentito dei vari temi teologici. Quali? Questa per esempio, il presupposto riferimento a una filosofia mi pare che abbia fortemente spinto in una direzione dell'interpretazione di Rosmini teologico come teologia glorie. Anche la tua relazione è stata abbastanza in questa direzione. Ora, questo sarà giustissimo, ma non mi pare che non possa essere problematizzato. E anche i riferimenti al cristocentrismo, che sono stati a volte insistenti, sono stati molto interessanti, molto, molto belli, molto stimolanti, già. Ma il Cristo non è mica un centrismo, voglio dire, è un principio cristologico. E basta ridurre Cristo a principio cristologico del pensiero teologico. E io ho qualche dubbio in proposito, ma io sentivo proprio abbastanza prossimo a questa inclinazione o questa deriva. Cristo è ben altro. Cristo si chiama, a mio sapere, Gesù di Nazareth. E assumere Gesù di Nazareth davvero come il centro, come principio, credo esiga un ripensamento ulteriore proprio di quella singolarità del Cristo che ieri abbiamo sentito variamente evocare. In che modo? Ecco, proprio cercando forse di pensare meglio che cosa può essere la ragione teologica. La getto lì. Chissà che non possa essere soltanto una ragione ermeneutica, e questo senza compromettere tutti i buoni diritti di un pensiero anche speculativo, di una filosofia autonoma, eccetera, eccetera. Ma la teologia forse è costretta, per essersi medesima, ad accontentarsi di molto meno, ma un molto meno che significa il riferimento non a un fatto che mi sta proprio male, ma a lui, a Gesù, interpretato, ecco la dimensione proprio tipicamente teologica entro il quadro del Kerygma. E il Kerygma è annuncio interpretante, e forse di lì dovrebbe essere proprio ripensato più attentamente il tema anche della tipicità della ragione teologica. Quando questo non avvenga, avvengono delle cose che ora non esemplifico se non in un caso, perché non c'è la vittima diretta, che è un ottimo amico. È ottima relazione quella di Coda, no? Ma anche altre, e dico davvero che queste relazioni le ho apprezzate moltissimo. Per me sono un modello col quale dissento talvolta, ma questi sono altri fatti, però davvero apprezzabilissimo. Quando il professor Coda ha assunto come categoria prima quasi il paradidone o il dare, l'ha assunto in un contesto di questo tipo, voleva fondare la pluralità, ma cari amici, la pluralità è già data nel dare, non è il dare che fonda la pluralità, ma è la pluralità che fonda il dare. Ecco il pericolo di una speculazione preconcetta che qualche volta mi sembrava cadesse in, poi in generale nella postulazione piuttosto che nella discussione. Ma ho finito con due osservazioni. Ho apprezzato moltissimo tanti riferimenti veloci che sono stati un po' di tutti i relatori, ma particolarmente Colzani, il quale ha tentato una storicizzazione del pensiero del Rosino. Io credo che se vogliamo davvero pensare teologicamente, questa storicizzazione ha un'esigenza, un'impellenza particolare. Ma se vogliamo pensare storicamente, ora la lezione di Padre Russo è quanto mai interessante. Bisogna non soltanto pensare come Rosmini è stato originato, ma che come Rosmini è stato fecondo, o forse infecondo. Ma allora questo diventa il problema, non di fare il Santino Rosmini, magari sotto il titolo di Rosmini iniziatore, Rosmini precursore, che non ha mai precorso nessuno, perché oggi l'andiamo a recuperare perché sappiamo già altre cose, le ritroviamo lui, guarda un po', l'aveva detto. Queste sono forme edificanti di pensiero. Forse questo dovrebbe essere davvero una riflessione teologica che non si accontenta di stabilire strutture della Chiesa, ma si chiede che cosa ha permesso, che cosa ha determinato questa particolare vicenda del Rosmini, per cui è stato profeta forse, ma inascoltato, profeta però neppure udito e quindi non ha profetato proprio nulla, perché se la profezia non la si ascolta non è. Ecco, questo è il problema. Allora diventa quella di una ecclesiologia che è ben più determinata, ben più concreta e forse risponde veramente a quelle ultime sollecitazioni che lei ha dato e di cui ringrazio, come ringrazio tutti gli altri, perché quello che hanno detto per me è stato davvero stimolante. Grazie, buonasera. Iscritto a parlare il professor Rossi. Non c'è in sala? Allora do la parola giusto al professor Stagliano. Dunque, mi è parso di capire, e d'altra parte il tema lo imponeva, che la riflessione su Rosmini in questo consesso non avrebbe che potuto essere la riflessione su Rosmini teologo, perché questo è in tema. Perciò il fatto che la teologia di Rosmini abbia fatto giocato un ruolo preponderante e dominante, io credo che sia stato imposto dal tema che ci stiamo che ci siamo posti. Scusate il linguaggio, ma ripetitivo per l'emozione che sento un po' nel cuore. Spero di poter esprimere quello che penso con linearità e chiarezza. Io ho individuato la novità, dico io, soltanto perché per quel che mi risulta dalla produzione della letteratura su Rosmini esiste soltanto il mio testo, quello sulla teologia secondo Rosmini, sistematica e critica interpretazione del rapporto fede e ragione, che tenta formalmente di approcciarsi alla questione epistemologica del teologare rosminiano. Io mi sembra di aver individuato la novità della teologia di Rosmini proprio nella ricerca di questa strumentazione concettuale che servisse alla esplicazione intelligente del credo cattolico, del dogma, della fede. E questa mattina è stato molto interessante nella relazione del professor Colzani, diciamo contenutisticamente alla sua relazione lo diceva, però il professor Colzani ha mancato di offrire alla nostra conoscenza una categoria che Rosmini usa, la categoria di causalità quasi formale, che è una categoria usata da Rosmini e che è contenutisticamente equivalente a quella categoria utilizzata all'inizio di questo secolo da Rahner e De Lattaille, categoria di causalità quasi formale, che serviva a questi due autori per far evolvere la teologia della grazia in ordine a questa questione fondamentale, cioè la pensabilità del principio increato dello Spirito Santo come persona nel cuore, nell'uomo, cioè la presenza triniforme della grazia e presenza dello Spirito Santo nell'essenza dell'anima umana. Quindi causalità formale e oggettiva, ma anche interessante nella riflessione del professor Coda come emergeva questa reciprocità tra il sintesismo delle forme dell'essere e la circuminsessione trinitaria. Sono problemi che inesorabilmente la testualità di Rosmini inevitabilmente pone. Se Rosmini pone a fondamento della teosofia, misterioso fondamento della dottrina della Trinità, questa è un'affermazione che non può non essere teoreticamente rilevante, che non può essere semplicemente citata, ma va in qualche modo pensata sulle sue implicazioni, diciamo, teoretiche ed epistemologiche. Allora, io, vedendo nella figura di teologia questa particolarità, cioè l'utilizzo di una particolare filosofia, Rosmini insiste enormemente, si tratta di una filosofia, o di una filosofia una, è la filosofia della verità, il sistema della verità, io mi ponevo, riflettendo un po' criticamente, su questa questione, come fa una filosofia ad attuare la fede. E citavo anche dei testi dell'antropologia soprannaturale in cui emergeva quasi direttamente, questa è la testualità, professor Boff, poi le interpretazioni, io dico c'è un problema anche di interpretazione dei testi di Rosmini, pone lo stretto nesso tra il dogma del peccato originale e l'innatismo, e il sistema innatistico nel pensare la situazione della mente o la struttura originaria della coscienza, questo nesso è profondo, è del legame, e nella prospettiva rosminiana potremmo dire che il dogma del peccato originale, questo è il suo testo, include, non svela, che la soluzione della questione dell'origine delle idee non può che essere innatista. Certo, di quale innatismo si tratta ci penserà la ragione a scoprirlo, a inventarlo, se volete anche autonomamente, tra virgolette, ma che la soluzione di come l'origine si... la soluzione circa la struttura originaria della mente sia innatista, questo professore in Cardona è un testo di Rosmini che io ho portato, sono dei testi che io ho portato e che lei può eventualmente confrontare, per niente, d'accordo, comunque sia, chi ascolta può confrontare se questi testi sono realmente reali, visto che nelle note infrapaginali quando apparirà il testo sono indicati, e poi veda e valuti da sé. Bene, detto questo, io direi, io ho apprezzato molto questa mattina la riflessione del professor Tilliet proprio per il recupero di un concetto, ecco, di cristologia filosofica al pensiero rosminiano. Si tratta di rilevare appunto la presenza della persona di Cristo nella razionalità umana, cioè, tradotto un po' più plasticamente, si tratta di superare quello schema tra fede e ragione che vede nella fede soltanto una contestualità psicologica ispirativa, si tratta invece forse di pensare una presenza epistemica della fede, ma proprio a favore della consistenza della razionalità, a favore della consistenza della realtà strutturale della mente. Da questo punto di vista, per comprendere da un punto di vista teologico lo schema cristologico dell'unione ipostatica e di come l'unione ipostatica viene interpretata in Rosmini, se è vero che Rosmini supera, diciamo, il rischio del monofisismo e del monotelismo, può in qualche modo servire. Cioè, se l'attrazione al verbo, per cui nel verbo esiste la persona anche dell'umanità di Cristo, lasci in qualche modo l'umanità di Cristo stesso essere consistentemente tale, vera, che non la attragga e la dissolva. Ecco, io credo che lo schema cristologico e la soluzione che Rosmini dà al problema dell'unione ipostatica possa servire anche come paradigma e come modello interpretativo della riflessione che stiamo svolgendo. Io credo che criticamente il problema sia questo, ed è stato anche evocato dall'intervento di questa mattina, cioè come abbiano fatto i rosministi filosofi, di cui certamente eccellente esponente è il professor Incardone, verso la cui sapienza io mi prostro, non in adorazione, ma comunque mi prostro in reverenza. Introducendosi nel suo intervento, ha usato tanta verbosità e non ho capito perché non me ne possa concedere un pezzo io, d'accordo? Vabbè, comunque sì. Allora, di fronte alla cui sapienza io mi prostro riverente, il problema è questo: come abbiano fatto questi rosministi a produrre adeguatamente anche filosofia, diciamo, rosminiana, a intervenire filosoficamente sul pensiero di Rosmini, estromettendo in maniera programmatica e comunque totale l'intenzionalità teologica, il riferimento, no, alla teologia, alla fede e al dogma, che pure nell'opera di scrittura rosminiana è realmente presente. Io credo questo sia un problema critico, che questo convegno in qualche modo, tra le banalità e le chiacchiere che sono state fatte, mette in gioco, nella speranza che perlomeno effettivamente venga discusso, perché non è vero che alcuni problemi sono stati superati, come è stato detto. Alcuni problemi, quei problemi non sono stati affatto superati, sono semplicemente stati rimossi dai filosofi in nome della purezza del loro filosofare, e dai teologi, non dico in generale, da alcuni teologi, in nome del positivismo teologico, che oggi è anche di gran moda. Per cui riflettere ancora su certa problematica, capisco bene, è come riportare i dinosauri, no, a Rovereto, ma anche i dinosauri, diciamo, di bronzo possono essere dei segnali che certe cose non sono proprio morte, purché non siano semplicemente l'evocazione di mostri. Grazie. L'ultimo intervento è del professor Marini. Grazie. Posso? Ah sì, sono qua. No, io volevo soltanto porre una domanda o due al professor Piazza, per la relazione che ho ascoltato con grande interesse. Ho notato che il moderatore ha usato l'espressione ermeneutica, effettivamente c'è un'ispirazione ermeneutica nella sua relazione. Chiederei un po' di attenzione. Prego. Per questa conclusione. Sì, sì, no, ma sarò breve. Sarei brevi, ma... No, io sarò breve, certamente. Ma volevo dire, ho apprezzato tutto l'impianto, ho apprezzato in modo particolare la conclusione, storie ed Eschaton, con l'illustrazione delle tre dimensioni dell'Eschaton. Il mio... che lei aveva certamente nella mente. Ecco, a chi si riferisce questa osservazione, questo rischio? Ricaduta storicistica, allo historismus di cui sappiamo che ha avuto tanti esponenti così sensibili al problema religioso e così aperti alla trascendenza, mi riferisco ad autori che hanno studiato questa tradizione, da Troisen, Ranke, fra i filosofi Dilthey, Trelce. Mi riferisco a due studiosi di cui il professor Tiet ha parlato con grande simpatia filosofica, cioè Pietro Piovani e Alberto Caracciolo, e a loro allievi come Cantillo. Non direi che questa sia una ricaduta storicistica, perché in molti casi c'è una sincera e profonda apertura alla trascendenza. L'altro riferimento è, ha parlato lei dell'evitare la riduzione degli uomini a strumenti di una condizione, di un senso prestabilito della storia. Qui non sono sicurissimo delle parole, perché era un'espressione più lunga. A chi si riferiva questa menzione? Forse a Hegel o a qualche autore influenzato da Hegel, forse a Marx, forse a Bloch, non so. Il chiliasmo di Kant, teologico o filosofico di Kant, mi sembra essere immune da queste accuse, perché a mio avviso, come del resto ci è stato anche ricordato oggi dal professor Martucci, a me pare in grande consonanza con quello che leggiamo di Rosmini, con quello che ce lo rende tanto attuale. Grazie. Grazie. L'ultimo intervento prima delle repliche dei relatori, del professor Incardone. Io sono molto lieto della circostanza, perché il polemos è il sale della discussione, della disputazione, il polemos, quello autentico, non quello fatto di rivalse, anche perché in anni ormai lontani, purtroppo, io ho passato 2 mesi, quando si cominciano a fare questi discorsi si capisce che chi parla è verso il declino temporale. Comunque, vale la pena di ricordarlo. Ho passato 2 mesi a Palazzo Bovongaro a vedere le carte manoscritte della teosofia rosminiana. Con fratello Gritti, allora, padre Bozzetti, preposito generale, padre Posineri, factotum di tutto. E quando tornai e ne parlai con Sciacca, gli proposi di rifare l'edizione critica della teosofia, perché vidi le discordanze enormi che ci sono tra le carte a migliaia e l'edizione nazionale, che allora era l'unica disponibile. La cosa poi finì lì per vari motivi di difficoltà e così via. Fra le altre cose che potei percepire nel vedere le carte, ricordo una congerie di appunti e di annotazioni che continuamente riproponevano temi teosofici in una maniera più articolata di quanto poi non accadde nella stesura manoscritta e specifica, nei quali si accavallavano e si intersecavano gli elementi molteplici di riferimenti scritturistici, teologici, teologali, speculativi e così via. Dico questo perché è da allora che comincia e non è finita, e purtroppo forse rischia di finire senza aver cominciato sul serio, senza essere cominciata in maniera molto, molto più aggressiva di quanto non accada. È cominciata un'avventura che ha cercato di riportare Rosmini alla riproposizione di se stesso in maniera autentica e originale, sottraendolo al contenzioso teologico, filosofico, razionalistico, fideistico, perché già la caratura della speculazione rosminiana come teosofia voleva già dire, indicare nella genesi rosminiana del pensare, nel suo senso più specifico e speculativo, la aporia fondamentale che Rosmini soffrì in maniera personale e anche drammatica, nel rispetto pieno, nell'accezione piena di quello che, come stamattina abbiamo ascoltato nella lezione di Tietz, è il verbo come una sorta di croce che non riesce a farsi dividere dal corismos, che a un certo punto è la stessa ragione, come ragione speculativa, a imporre e a porre, finendo poi, non lo so se per tagliare se stessa, se per tranciare se stessa dalla radice teologale e anche poi in realtà della croce come tale, dalla persona incarnata come tale, per perdersi nelle fantasticherie o nelle chiacchiere metafisiche. Io vorrei a questo punto dire soltanto che non è questione di contenzioso, di polemica tra autonomia ed eteronomia del discorso, perché già il discorso filosofico per sé ha una sua croce, e non vorrei appesantire questa croce con le altre croci o con le croci, come dire, più proprie, più autentiche, anche perché potrei giocare a questo punto di sottigliezza gorgiana, e non per riprendere la Chenea Pate di San Paolo, rieducarla con la Pate di Caia di Gorgia. Però dovremmo poi chiederci se siamo o se non siamo come i Tessali amatesteroi, privi di assennata esperienza e perciò nemmeno degni della Pate di Caia, cioè del giusto inganno. La teologia a un certo punto oggi può fare anche questo scherzo. La teologia nel suo senso più politico, tra virgolette, non scientifico, per cui potrebbe anche giocare con la filosofia, con questa sorta di marchingegno che potrebbe essere la Pate di Caia, da Gorgia, gran sofista, riportata ai giorni nostri, un po' più poveri di sofismi autentici e seri. Ma per quanto compete a questa incursione che faccio soltanto per dovere, diciamo, di lealtà e di risposta personale a una polemica che mi trova, ripeto, lieto, perché forse questo rompe un po' l'aria ovattata che abbiamo un po' vissuto in questi giorni e anche oggi, attraverso riproposizioni, certo, che sappiamo, sono quelle che sono, la scritturistica, la teologistica e così via, per cui merita un po', dico, riscaldare l'ambiente. Vorrei dire a questo proposito soltanto offrire due annotazioni. Per quanto riguarda l'innatismo rosminiano, che viene liquidato in maniera molto, molto banale, devo dire, e letterale e manualistica, basterebbe leggere il libro 3, Teosofia 1180, paragrafo 1180, nel quale Rosmini spiega e argomenta la specificità che egli considera propria di ciò che chiama l'innatezza dell'idea, che non è l'innatismo, è tutt'altro. E a questo stesso proposito vorrei ricordare una sottilissima dottrina rosminiana, che non ho mai ascoltato né citata né studiata, credo. Libro sesto, nono, decimo, paragrafo, la teoria dello stoffo dell'ente. Preziosissima pagina nella quale Rosmini riesce, diciamo da maestro, a sottilizzare talmente rispetto alla forma che cosa è il costitutivo della realtà fra l'essenza che è propria della forma e ciò per cui essa non coincide con ciò che è l'atto rispetto alla realtà stessa. E per concludere vorrei invitarvi a riflettere su una specifica dimensione del discorso speculativo rosminiano, cioè una dialettica poco, anche questa poco studiata, una dialettica non letterale in Rosmini, ma geneticamente possibile da Rosmini. La distinzione che egli fa tra filosofia progressiva e filosofia regressiva, bilanciata o squilibrata dal concetto di astrazione discendente e di astrazione ascendente, non corrispondente a ciò che è la filosofia progressiva e a ciò che è la filosofia regressiva, in relazione anche a quello che per me rimane il vero ganglo vitale della indagine che bisognerebbe cominciare a fare, non sulle questioni fra teologia e filosofia, ma sulla questione unica, rosminiana, del ganglo vitale, del nucleo vitale, germinativo della origine, della connessione tra discorso nel suo senso proprio, che è speculativo, che è astratto, che è di parola, che è di concetto, e l'inveramento teologico, teosofico, della parola nel suo senso più puro e più assoluto, la teoria dell'astrazione teosofica, che non è e non va liquidata così facilmente con il ricorso all'astratto teosofico, ma va ripresa nella argomentazione che Rosmini stesso ne dà nel quarto della metafisica della teosofia e nei successivi paragrafi attraverso i quali teorizza e argomenta all'interno dell'astratto teosofico, che è come una sorta di ponte tra il soggetto assoluto, subiettivo, e ciò che poi diventa fino al soggetto, che è il soggetto umano che pensa. E forse qui, comincerebbe o ricomincerebbe il dialogo, anche questo, se vogliamo, sanamente, fortemente polemico, della realtà sussistente come parola in assoluto e della realtà, diciamo pure, insussistente come parola, che è soltanto, se ci riesce, soltanto se ci riesce, è appena concetto fondamentale. Grazie. Allora comincerei la serie degli interventi di risposta a partire dal professor Conigliaro. Che c'entro proprio per caso questa sera, perché non mi compete questa posizione proprio questa sera. Ad ogni buon conto, la domanda riguarda semplicemente un elemento marginale della mia relazione, proprio era un'espressione di passaggio, e io me la cavo proprio così, di passaggio, dopodiché abbandono il tavolo a chi deve tenerlo. Dunque, Prima cerco di riassumere quanto lei mi ha detto, in qualche modo. De Lubac, discepolo di Blondel. No, non è stato suo discepolo, amico. C'è stato uno scambio continuo tra i due. Discepolo nel senso appunto di corrispondenza d'amorosi sensi, nel senso globale proprio del termine. C'è stata anche una solidarietà, perché entrambi hanno avuto dei problemi. E quindi questa loro storia in comune, anche se si tratta di due storie parallele, ha prodotto una sintonia proprio perfetta dal punto di vista della intesa. E il De Lubac, siccome facendo la sua indagine della tradizione teologica che arrivava fino a lui, una indagine di tradizione teologica che spaccava l'uomo in due e faceva una sorta di due piani paralleli di tutto, della natura e della grazia, della storia e del dogma, dell'uomo oppure dell'umanità e della Chiesa, eccetera. Ecco, il De Lubac ha attinto a Blondel una sorta di esigenza che è proprio quella che viene denominata il metodo dell'immanenza. Un'esigenza che produce una tensione tra questi due livelli fino al punto da quasi produrre una sorta di confusione di idee per cui quasi non c'è più distinzione. Lei sa benissimo che Blondel ha avuto per tutta la sua vita questa accusa di essere immanentista fino al punto da eliminare proprio il livello della trascendenza. Anche De Lubac ha avuto lui questo problema, perché ha avuto queste accuse. Oltretutto, quando non si riusciva a colpirlo direttamente, si diceva: ma sei amico di Blondel? Sei amico di Blondel, per il quale le cose sono andate in questo modo, per il quale si dice questo e al quale si rivolgono queste accuse. Per cui, o per la via diretta o per la via indiretta, bisognava in qualche modo colpire De Lubac. De Lubac se l'è cavata di stretta misura, poverino, poco prima di morire, col cappello cardinalizio che ha avuto. Se dobbiamo fare un confronto con Rosmini si è preparato il corredo, ma è ancora allarmato, mi pare, da qualche parte, e con una delle case rosminiane. De Lubac invece se l'è visto a sorpresa il galero sulla testa. Ad ogni buon conto, questi sono elementi piuttosto, come possiamo dire, piuttosto estrinseci al discorso. Però qual è il nocciolo del metodo dell'immanenza? Com'è quest'uomo? Capax? Capax di che? Ma qui tutti e due attingono all'antica tradizione, un'antica tradizione che loro poi afferrano attraverso il contributo di Tommaso d'Aquino. E si trova questa espressione: homo est capax, lei diceva entis. Certo, ma loro effettivamente dicevano capax dei, ed è effettivamente così, ma nel senso che l'uomo può fare un balzo verso Dio, afferrarlo ed appropriarsene, l'elemento che aggiungevano era esattamente questo: capax dei ut gratia, cioè l'uomo è capace di Dio perché può accoglierlo nell'atto di autodonarsi in se stesso. Qua io stamattina, ieri sera, ho proprio detto semplicissimamente: De Lubac accoglie da Blondel, sono termini che si ritrovano nelle pagine di De Lubac, accoglie da Blondel due parole chiave: la parola desir, e cioè quello che è il desiderium naturale videndi Deum, che è un elemento che esplode nell'uomo, che scatena una tensione proprio verso il trascendente, verso l'assoluto, verso l'essere pieno, verso proprio il mistero, che è irrefrenabile. Ecco perché questo desir, o questo desiderio naturale videndi Deum, si identifica proprio con la struttura dell'uomo. Questo è un dato che De Lubac attinge all'antica tradizione, però il fremito, per così dire, di questa espressione, egli lo afferra da Blondel. E allora nel desir coglie l'altro elemento, che è proprio quello che dirime proprio la questione del rapporto tra immanenza e trascendenza, nel senso che il trascendente è trascendente e l'immanente è immanente, e cioè appel. Ecco, a questo desir corrisponde la chiamata. La chiamata viene dall'alto, non dall'alto, dal di fuori, da ciò che è remoto, no. La chiamata viene da ciò che è effettivamente la pienezza, il compimento, la perfezione di tutto questo esplodere di tensione dell'uomo. Ecco perché è di Blondel la frase: i dommi più che rivelati sono rivelatori. non perché l'uomo dall'inizio alla fine i doni li possiede e li amministra, ma nel senso che, ecco, il desiderio dell'uomo è tale che può abbracciarli, ma non perché li possa raggiungere, ma perché nell'atto stesso in cui la rivelazione li offrirà, oppure Dio nell'atto di donarsi in se stesso glieli darà tutti questi, l'uomo sarà in grado proprio di afferrarli e di accoglierli. Per cui, capax Dei ut gratia. Bene, soltanto questo dovevo dire e lo dico. Grazie. Pregherei il padre Tiet se vuol venire a rispondere alla domanda che gli è stata rivolta. Una premessa: nella mia produzione di questa mattina ho toccato il problema delle idee innate, del cosiddetto innatismo, e questo che avrei voluto discutere, perché non basta dire che la filosofia questa ricavata dal cristianesimo, ma ancora, perché Rosmino lo dice, dimostrare come si può essere la filosofia del cristianesimo. Ma illuminante per me ciò che ha detto adesso l'amico in Cardona, perché alla fine le nostre polemiche vengono da polemiche amichevoli, vengono da posizioni un po' rigide, un po' rigorose. E infatti la teosofia, l'idea di teosofia, anzi di teletica, potrebbe essere, sono concetti rosminiani profondi e che ci aiutano a superare le nostre posizioni. Mi sembra, se ricordo bene, che ho soltanto una domanda, una o due domande, dell'amico professore Cavacciuti. Direi molto brevemente che ammetto che c'è una specie di discrepanza o di divario che non mi è sembrato necessario risolvere, perché mancava il tempo, e io ho parlato appena di un poco di carità, di amore e anche di vita, che è il concetto molto importante nell'introduzione a San Giovanni. Soltanto che a proposito della sapienza, perché ho insistito tanto sul carattere di Cristo sapiente, ma senza insistere tanto sui contenuti di questa sapienza come scienza, e che, Rosmini si contrappone a Kant, per Kant Cristo è l'errore per eccellenza e quindi dà un insegnamento. E secondo la tradizione cristiana, da Ireneo in poi, è anzitutto un rivelatore. È un rivelatore di se stesso, rivelandosi, non contenuti di conoscenza o di scienza, questo è secondario. Omnem novitatem attulit semet ipsum afferens. Tante volte l'ho letto e sentito da padre De Lubac, di cui si parlava adesso, e questo era la cosa importante contro una evoluzione teologica che adesso è terminata, è finita, che cercava non soltanto le tre scienze del Cristo, questo è legittimo cercare in un contesto teologico, ma anche tutti questi contenuti, e quando i nostri professori di prima dovevano rispondere se Cristo conosceva la fisica nucleare, eccetera, dovevano dire sì, conosceva tutto, e contro questo magazzino di conoscenze c'è una sana reazione, non soltanto a causa della kenosi, ma a causa dell'assurdità alla quale una insistenza esagerata sulla sapienza come scienza arrivava, perveniva, è soltanto questo. Però è vero che rimane questa difficoltà di amore e sapienza, che quindi conoscenza amore, che è il grande problema del padre Russo, è un vecchio problema anche del Medioevo. E mi auguro che domani il nostro amico Giuseppe Lorizio, nella sua conferenza, tratterà questo problema, e così mi esimo della risposta. Grazie, professore. L'ultimo intervento del professor Piazza. Molto brevemente le varie domande. Intanto, senza addentrarmi moltissimo nella questione sul concetto di morte, l'essere per la morte hegeliano ha una natura profondamente diversa dall'essere per la morte cristiano. Intanto, l'essere per la morte del cristiano rimane una tragedia. Invece mi sembra di ritrovare in quell'essere per la morte non tanto il soffocamento dell'escaton, perché poi c'è la seconda parte della risposta, ma quanto il fatto che mi sembra riprodurre la vecchia saggezza socratica, un rapporto con la morte abbastanza disteso. Lì c'è la verità dell'uomo per Heidegger, è il momento di maggiore definizione della sua verità, della sua compiutezza. E allora sì che è soffocato l'escaton. Ora però bisogna notare, e questo vale anche per quando dirò in seguito, del come io ho un po' posto il rapporto con la morte all'interno di questo principio ermeneutico che ho voluto un po' tracciare, perché la chiave di lettura della mia relazione, io non sono un rosminista, perché ho detto subito che sono un novellino, e allora mi sono interrogato in modo totalmente diverso, se no andava a finire nella bocca dei leoni qua, come si può notare, ecco, e quindi me la sono scampata da questo punto di vista, un po' furbamente, intelligentemente, scusate l'immodestia. Però voglio dire, io ho messo in evidenza un fatto, che la morte nella concezione escatologica non è l'inizio dell'escaton. L'inizio dell'escaton è precedente alla morte. Mi sembra di averlo abbastanza sottolineato. Allora in questo caso mi sembra che si possa ridisegnare un nuovo rapporto con la morte, che evidentemente trova il suo paradigma nella morte in croce, secondo quelle due concezioni fondamentali dell'offerta e dell'obbedienza, l'affidamento e l'obbedienza, creaturalità e affidamento. Non ho avuto modo di poter parlare di tutta la dinamica cristologica escatologicamente orientata, che era la terza parte della mia relazione, ma potrà leggerla e allora troverà anche nuove risposte su questo tema. E questo principio ermeneutico, mi rivolgo all'amico Gian Piero Boff, perché anche se non sono stato direttamente provocato, però quando lui interviene apre sempre nuovi varchi, nuovi spazi, nuove suggestioni, per cui potrei fare mie le tue obiezioni, perché io da un lato sono provocatore, da un altro lato sono provocato, per cui potrei mettere dalla tua parte e fare la stessa domanda a loro. Per quanto riguarda me però, perché io stasera ho usato l'espressione principio cristologico riferendo a Rosmini, ma evidentemente riassumendola in un contesto dell'escatologia contemporanea. Io mi permetto di dire in che modo ho usato questa espressione, perché reputo profondamente valida l'affermazione tua, quale cristologia? Ma è una domanda successiva che dobbiamo farci tutti. Io ho detto semplicemente che in un assunto ermeneutico della escatologia, la quale mancava del suo oggetto, perché si parlava di nuovissimi, ma non c'era un parametro, allora l'aver ritrovato il suo parametro, il qualcuno, per me finalmente significava respirare. Quindi vedo che sei soddisfatto della risposta. Però è chiaro che le tue domande diventano anche le mie domande, perché avrei voluto anche interrogare tanti che hanno parlato prima di me, perché anch'io ho le mie curiosità, però credo che questo apra una successiva riflessione, su cui bisognerà intendersi, perché no? Perché io immagino quanti di noi, come te, anch'io, mi sento all'improvviso paracadutato in questo personaggio così straordinario, ma anche così controverso. L'inizio della mia relazione diceva proprio questo: grazie a Dio ho scelto solo la Teodicea, non mi sarei mai avventurato in un complesso pensiero quale quello del Rosmini. Ho avuto, meno male, questa umiltà di partenza, e allora io rivendico a me questa posizione. Ci sono state, a mio modo di vedere, due livelli di relazione: la relazione dei rosministi, dei rosminiani, di coloro che fanno il pensiero rosministi, che vede, anche su questo bisogna intendere. Ah, ecco, allora va bene, rosministi. Chiedo scusa. Ma per non dilungarmi, va bene, rosministi, ci intendiamo sul rosministi, va bene. Allora, ecco, credo che ci sia la fascia dei rosministi che è venuta in questo ambito per dibattere, approfondire e ulteriormente evincere nuove possibilità di riflessione. Ma una seconda parte, io credo, molto intelligentemente procurata da chi ha organizzato questo convegno, che è quella di chiedere a coloro che svolgono dei trattati, qual è il mio, escatologia, quale un altro, antropologia o ecclesiologia, cosa la lettura di un testo rosminiano provoca, lascia dietro di sé. E allora da questo punto di vista io mi sono sentito non solo provocato, ma ho creato una circolarità simpatica di provocazioni. Questo per non cadere in quel rischio che Gian Piero Boff mette molto in evidenza, e su cui concordo, quello di poter evidentemente, in ragione di una attualità forzata del Rosmini, non storicizzarlo, non portarlo in quelle che possono essere delle questioni teologicamente in sé e non solo in ragione del suo tempo o del nostro tempo. Su questo sono perfettamente d'accordo. Quindi io mi rivendico la seconda fascia di relazione, quella su cui io mi sento provocato da Rosmini, ma anche su cui mi sono impegnato a continuare a studiare, perché con l'amico Lorizio spero che questo discorso non finirà. Per quanto riguarda, comunque io ho questa paternità, io sono figliolo suo dal punto di vista dell'inizio a Rosmini, quindi lo ringrazio per questo. Per quanto riguarda la parola storicismo, io non l'ho pronunciata in modo così impegnativo quale lei in questo suo intervento l'ha posta, perché certamente comunque il vaglio era di questo genere, no, è il professore. La domanda è molto pertinente e soprattutto andrebbe ulteriormente approfondita. Ecco, certamente mi sembra di aver dato con chiara connotazione che la parola storia non sia una parola brutta, anzi l'ho talmente rivalutata perché ho detto che il tempo escatologico comincia nella storia, e allora evidentemente storicismo era un po' orientato a vedere quella l'assorbimento della storia in una orizzontalità dal cielo basso, richiamo un po' di Yard de Chardin e qualche altro riferimento. Chiaro, può avere una valenza blocchiana, perché no? Ecco, se io devo guardare la storia secondo il prospetto Ubi Lienin, Ibi Jerusalem, io certamente non sono d'accordo su questo concetto di storia. Bene, grazie al professor Piazza, a tutti i relatori di oggi e agli intervenuti.